Wolf Trips, I viaggi del lupo. E siamo tornati in onda. Dopo abbiamo fatto una bella lunga vacanza estiva, ci stava tornare in onda. Dall'altra parte della scuola, barricata. Della barricata abbiamo Fabio e Sara. Che questa sera, devo dire, questa stagione che iniziamo di Wolf Trips, ci saranno molte persone ad alternarsi allo speakeraggio. Tanti amici con noi. Sì, giusto, giusto, giusto. Solo che dire tanti amici con noi, non lo so, non è bellissimo. Tapiasmia. Allora, noi siamo Wolf Trips, non abbiamo detto nulla perché così lanciamo subito il programma e andiamo all'esplorazione di musica elettronica, ma non solo. Quest'anno avremo anche tante sorprese e anche qualche approfondimento, dai. Ma hai studiato quest'estate? Hai studiato quest'estate per nuovi gruppi, nuove sì, band? Sì, sì, sì, no, guarda qualche lista che tu hai fatto. Mezzaca! T'hai visto? Tra l'altro ho selezionato anche qualche genere sempre underground che non abbiamo suonato l'anno scorso, tipo la drum and bass o dubstep. Avremo anche un po', diciamo, di musica un po' più movimentata, mettiamola così. Iniziamo subito con questo brano di... Aspetta, vai. Aspetta, qui il popolo acclama. Ma no, lo devo annunciare aspetta, io. Aspetta, aspetta, no, devo dirti una cosa. In realtà il gruppo secondo me si chiama Friend. Però, no, come è scritto? Friend! Ecco. Perché c'è la nuova moda tra i producer di mettere solo le consonanti. Non l'ho ben capita. Vi ricordate quel programma che c'era in televisione su Rete 4? Dove... Gira la ruota. Dove com'è? Vengono tutti da lì. Cazzo, quel programma, è il programma, cioè, quel programma. Cioè, non è che... Compro una vocale. Sì, infatti. Vabbè, andiamo ad ascoltare il brano Friend Be Happy e poi dopo andremo un po' a chiacchierare. Sara non la vedo molto collaborativa oggi. Non è vero, dai. Bisogna subito riprenderla questa ragazza. You need me now, 'cause in my dreams you're still around. But you've been gone for quite some time. It finally feels like you're not mine. Will you remember me? 'Cause I'll remember you, yeah, you. You went out and found somebody new, and that still hurts. It's taking everything inside my bones to say these words. Even if it's not with me, I just want you to be happy. Just want you to be happy. Still alive. partiamo con questo brano molto soft, dai. Fabio, che mi dici? Stavo addormentando io. No, vabbè, però guarda, vorrei impostare le puntate proprio in questo modo, partendo da brani molto tranquilli, molto leggeri, per poi dopo andare un po' picchiare duro. Sì, creare un po' il climax, diciamo. Climax. Senti che accento. Hai visto? Mi ha subito redarguito. E ciao Sara. Ciao. Visto che ancora non hai parlato, volevo riuscire a interagire anche con te. E quest'anno collaboreremo molto con il tuo blog. Presentalo una volta e basta. Poi basta. Te lo dico. Solo una volta? Sì, una volta. Io prendo appunti. Ok. Allora, io assieme a un carissimo personaggio che oggi ci sarà qui e che parlerà dopo, Emanuele. Vai. Facciamo parte del blog Bioma Terra. Perfetto. Anche la nostra perfetto. Idea, il nostro progetto nasce per fare divulgazione scientifica. Basta, fine. Collegato con la natura, sì, giusto? Sì, sì. Infatti la collaborazione che vi proponevo era di trovare qualche aneddoto, qualche storia, qualche informazione in questa puntata soprattutto dedicata al lupo, visto che siamo Radio Lupo Solitario, e poi dopo ci darà una mano Emanuele, visto che tu, ho capito che fa la scansa fatiche oggi. Domanda, ma voi fate ricerca scientifica, adesso coniami questo termine perché sono ignorante in ambito, solo nella zona o andate anche fuori? È una cosa molto autoctona? Siamo troppo poveri per avere soldi e andare quindi, in giro. Quindi è ancora meglio. Cioè, esplorano la nostra zona. Sì, e beh, quella sì, c'hanno. Sì, non sì, è sì. Che... Vabbè, volevo fare un po' il figo. Cioè, passano ogni tanto, no? Vabbè. E continuiamo con la musica e poi dopo avremo... Cioè, alterneremo un po' gli speaker oggi. Abbiamo anche un'altra speaker in panchina che si sta rifocillando. Senti anche il buon profumo, sì, esatto. Infatti. Andiamo a ascoltare il prossimo brano che è Chet Codes con Sober. It's been a while since I thought about you. It's been a while, have you thought about me too? I'm meeting him at the place that we used to. It's been a while since I thought about you. God, he almost looks like you in the dark. Sitting in the same corner at the bar. Yeah, we took so many shots, we went too hard. God, he almost looks like you in the dark. He ordered a drink before I could notice that Jack and Coke brought us into focus. I took a sip, it tasted just like it used to. Questo qua era il brano di Chet Code con Sober. Ridimmelo. Chat code console. Mamma mia, che accento che c'hai. Chat code console. Tu mi sembra che ieri eri in altri lidi, giusto? L'altro ieri, contando il fuso. Vabbè, dai, quello che è, dai. Sì. Sono appena tornato dalle vacanze estive, perché le mie vacanze estive le faccio sempre ad ottobre. E fai benissimo. Giusto. Yes. Ma poi non c'è nessuno. Cioè. Quest'anno ci è toccato New York, ma l'avevamo già anticipato l'anno scorso. Sì, è vero. E com'è stato? Un bel viaggio? È stato bello, anche perché a differenza non ho guardato proprio solo Manhattan, ma ho cercato di girare il più possibile, sempre coi mezzi. Ho visto il Bronx, okay. Ho visto Harlem. Harlem Shake. Ho visto la strada dove è passato Malcolm X, la 125esima. Chi è Malcolm X? E poi cos'è? Sono andato a Coney Island, ma con la sfortuna che ho era chiuso, perché chiude alle 8. Sono arrivato alle 8 e mezza. No. Volevamo no, fare le giostre, ma non chiuse. Abbiamo visto l'oceano. Vabbè. Mettiamola così. Vabbè, comunque c'è un bel ricordo, cioè. Dai. Della... Sì, no, è stato proprio un bel viaggio. Un bel viaggio. Va bene. Quanti giorni? 8 giorni. E a proposito di viaggio, visto che siamo Wolf Trips, continuiamo con noi invece con il nostro viaggio musicale. E questo qua è un remix di un DJ che ti consiglio di andare a vedere su internet, Sara, cercalo. Marshmello. È un tizio un po' particolare. Sta facendo molta fortuna. Scommetto che ha la testa a forma di marshmallow. C'hai preso. Tra cretini ci intendiamo. C'hai preso. Il brano è un po' più, diciamo, si muove un po' più sull'hip hop, però hip hop elettronico, però a me piace molto. Andiamo a ascoltarlo con Future of Meskoff. E rientriamo subito con questo brano remixato da Marshmello, Future con Meskoff. Allora, prima vi stavo parlando del blog Biomaterra e di una nostra collaborazione con loro. E abbiamo Emanuele. Ciao Emanuele. Ciao. E ci avevi detto che ci avresti portato qualche pillola dal mondo animale, mettiamola così, dai. Sì, esatto, visto che appunto siamo Radio Lupo Solitario, seguendo anche un attimino il consiglio, pensavamo di parlarvi del lupo. Sì. E bueno, vogliamo già introdurre l'argomento di oggi. Vai, allora, diretto così. Orecchie. Visto che siamo anche della zona, siamo poveri così, parliamo del lupo all'interno del Parco del Ticino, che non so se molti lo sapranno, però Samarate, la zona dei dintorni, è all'interno di un parco regionale. E sì. A maggio del 2017, dopo da più di un secolo, finalmente è stato avvistato un lupo. Ma nella zona di Samarate? No. Ah, meno non male. Ti preoccupare. Io mi stavo già non cagando ancora. Addosso. Non so se sentito l'odorino, cioè, del pannolino che devo cambiare adesso. No, è che siamo a Radio Lupo Solitario. Quindi dicevo, vabbè, ce n'è uno. Però sapere che ce n'è un altro. Non ci viene qua a rompere le balle. No, vabbè, a parte gli scherzi, dici pure. Vabbè, c'erano già stati degli avvistamenti sempre di lupi solitari nel 2012, così. Però purtroppo sono tutti morti perché sono stati investiti alla zona di Somma Lombardo. Sono venuti a mancare. Esatto. Non sono stato io, premetto. Poverini. No, tra l'altro stavo vedendo anche che stanno nascendo molte polemiche sulla questione dei lupi, sul fatto che comunque si pensa sempre che siano degli animali super mega cattivi e quindi da abbattere contenere a tutti i costi. Sì, sì, sì, infatti guarda, anche stamattina che stavo cercando un po' di informazioni in più, così ho trovato una lettera di un professore che aveva scritto al Corriere della Sera e boh, vabbè, aveva dei punti di vista un po' antichi secondo me. Cioè ci sono studi e studi che dimostrano che il lupo non è, cioè non va demonizzato, naturalmente è un animale selvatico, un predatore e bisogna prenderlo così com'è. Un po' come lo squalo, per dire. Esatto. Lo stesso discorso dello squalo. Vabbè, avevi altre informazioni? Ma sì, allora. Vai. Come è avvenuto questo avvistamento? Praticamente, qui però una nota negativa a parte del lupo, un pastore aveva ritrovato dei resti dei suoi agnelli. Allora, incuriosito, aveva messo delle fototrappole ed è riuscito a riprendere il lupo. Ha avvisato lo staff del parco, hanno iniziato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo. Sembrerebbe una femmina, forse ci sono addirittura due esemplari nella zona di Magenta, quindi siamo qua vicino, dai. Esatto. Quindi se potremmo fa la superstrada è qua, Quindi potremmo non essere più Radio Lupo Solitario. Siamo infatti Radio Lupo in compagnia. Cambiamo il nome della radio, La Comunella del Lupo. dimmi pure se a posto. Io ti volevo chiedere un'altra cosa, magari anche per una prossima pillola dal blog Biomaterno. Quest'estate ci è capitato al mare di vedere un lupo. Cos'è che era? Un lupo cecoslovacco. Sì. E io non capisco se è una moda, se è, non lo so, sembra più una moda, no? Nel senso che tutti, abbiamo il lupo cecoslovacco, allora siamo belli, guarda che cattivo che è il lupo. Però secondo me bisognerebbe approfondirla la questione, non lo so se è veramente così cattivo come sembra. No, vabbè, sì, è una moda, lui in realtà è un cane pastore che è stato ibridato con dei lupi, poi se vuoi ci sono un sacco di cose che sono saltati fuori problemi. Vabbè, poi questo magari lo approfondiamo per la prossima volta. Due lupi cecoslovacchi li ho visti qui a Samarate, ovviamente con padrone al guinzaglio, quindi so che sono abbastanza diffusi, è una razza abbastanza diffusa, non è come il lupo vero e proprio. No. Come dici tu, giustamente è una razza di cane, non è un predatore, diciamo, solitario, mettiamola così. Va bene, dai, ti ringrazio e ti aspettiamo veramente per le prossime volte con qualche altra chicca informazione. Volentieri. Andiamo a ascoltare un po' di musica, poi abbiamo un po' di radio e poi torniamo dopo. Ciao. Say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, you know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, you just know I mean it. And if I ever said I'm getting say that shit, then I mean it. She calls me, I screen it. I'm only fucking if it's convenient. You lying pussy, that's weak shit. We pass pussy round, that's G shit. But you ain't fam, so what is this we shit? You cuff yours and then leash it. Listen, I'm telling you, it's my world. I does what I wish to. If you're mad, well, too bad. Sounds like a personal issue. I walk in, they all stare like, who the fuck is this dude? Kick's game is just rude. Don't get jujitsu'd. Tunnel visions, I get ahead. Stay solid, I never fled. My haters feel like I'm better dead. But I'm quite alive, getting better instead. With a better girl, with a better face, I'm in a better place, getting better head. I just wanna stay broke forever. Yeah, that's that shit no one ever said. Viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Yeah. Sweet 23 hit the chateau. Had a hard man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, you'll be acting like a bitch now. I gave you diamond to pull right the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these tangs with the big butts. Take a homebody, turn her to a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benji today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. White linen, white rose, let's go. So please baby, please, baby, talk slow, talk slow. I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone. Grab your girls, grab your phone, and let's go. Get ready, we going to the chateau. Legs around my neck, I got your nails up in my bag. Get ready, we going to the chateau. No love, no love, no love, no love. Just fucking in a California cage. Sweet 23 at the chateau. Had a heart, man, I'm tryna get it back, dawg. Tryna get it back, tryna get it back, tryna get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, you'll be acting like a bitch now. I give you dime in the pool, write the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Take a homebody, turn into a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benty today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dawg. White linen, white rose, let's go. Oh, oh. So please, baby, talk slow, talk slow. I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone. Grab your girls, grab your phone, and let's go. Get ready, we going to the chateau. Legs around my neck, I got your nails up in my bag. Get ready, we going to the chateau. No love, no love, no love, no love. Just fucking in a California game, baby. Dai Fabio, dici come si chiama questa canzone, questo cantante e questo produttore. Partiamo dal produttore che è meglio. Che è un produttore, è proprio Tarro. Vabbè, no, ma si chiama Tarro veramente, lo sto prendendo in giro, si chiama Tarro, sì, no? Sì, sì, vabbè, però il pezzo è bello, dai. No, il pezzo è bello, c'è un bel groove, come dico io. Proprio prende, infatti mentre l'ascoltavo mi sculettavo tipo anni 90, no? Vedete quando si andava al Nautilus? Yeah! Il vecchio buon vabbè, Nautilus. Il brano è Black Beer Bear, beer, no, non beer saprei, come non orso. Saprei, come orso, non so se si pronuncia bear. Sarà, noi siamo Radio Lupo, lui invece è orso bruno. Orso bruno. Black Beer. Chateau è francese. Chateau. Black a casa mia è nero. E però secondo me loro intendono scuro, penso, un orso nero. Orsone. Mai sentito. Salutiamo anche la cria e i microfoni. Ciao! Ciao! Così abbiamo... Ma più 5! Così abbiamo completato la rosa di quest'anno. Dei cretini proprio. No, c'è anche delle persone serie. È dall'altra parte però. Sì. Arriva. Non fare il serio che pure tu. La neuro arriva. Sì, infatti. Vabbè. Tu invece di cosa ci volevi parlare? Parliamo su qualcosa di un po' più leggero. Come no? Mi fa la faccia. Sei tutto il giorno a dire no, ma devo parlare di questo, di quell'altro, di quell'altro. Dai, sentiamo un po' l'argomento della Cre. Siamo tutti orecchie. No, io invece dopo avrei una domanda da fare a Emanuele, Sara del blog Biomaterra. Quindi poi dopo al prossimo ritornano. Così rispondono a rate, no? Sì, infatti. No, vorrei vai. Approfondire. Comunque, come sono andate le vacanze? Ancora queste ragazze? Sono finite. No, finite. Non hai ancora parlato. No, sono andate bene. Sono divertito, ho visto tante cose belle. Io, sarà per i miei gusti personali, il MoMA non mi è piaciuto. Ma musicalmente non c'era, non arricchiavi nulla. Musicalmente è una figata, cioè metropolitana in giro. Ci sono tanti ragazzi validi che suonano. Sì, ma proprio ma dentro alle metro? Dentro le metro, secondo me hanno proprio il loro posto. Perché io un paio di volte vedo sempre lo stesso tipo. Tu pensi che potevi beccare qualcuno tipo, che so, Ed Sheeran che suonava magari, no? Infatti ho fatto una collaborazione con Ed Sheeran in metropolitana. Abbiamo raccolto anche $5. Se no come tornavo a casa? Vabbè, 2,50 a testa, perché certo, gli dovuti lasciare un po' di invece... Guarda, io volevo prendere $3, sinceramente, perché lui suonava e basta, io ho fatto tutto il resto. Okay, e okay. Nei locali, a livello di musica, come allora, era musica nei dal locali vivo? Vi voglio dare una chicca. Esiste un locale che si chiama Stardust, che in poche parole... Adesso lo stanno aprendo qua in Italia, tra l'altro. No, ma questo locale, secondo me, è unico al mondo. Cioè, adesso vi spiego com'è. In poche parole, tutti gli artisti vanno là un giorno, pagati come camerieri, e fanno dalla mattina fino alla notte tarda. Mentre servono, si fermano e cantano dal vivo le canzoni. E dentro vanno anche i produttori per vedere qualche talento nuovo. No, ma aspetta, fammi capire. Cioè, tu sei al tavolo. Io sono al tavolo. E c'è uno che arriva e ti allora, serve. Ti serve, ti sta servendo. Poi, dopo due minuti, lo vedi che sale col microfono e ti fa una canzone. Poi arriva un altro. I camerieri. Io pensavo un'altra cosa. No, i camerieri sono lì che lavorano e pagati come camerieri quel giorno. Sì, sì. Ma sono lì per cantare e farsi notare dalla però, gente però. Che è lì a fare colazione. Posso dire cosa avevo capito io? Che ci fossero tanti tavoli, ognuno, ogni cantante, no, ogni cantante andava a fare il cameriere a servire e ogni cantante ti cantava la canzone al tavolo. Ah no, beh, la serenata no dai. Però è fighissimo, io ero alle 9 di mattina a fare colazione e mi sono visto un concerto, ho fatto un'oretta, infatti non volevo più andare via, cioè la mia compagna diceva andiamo, no no, un'altra canzone ancora, un'altra canzone ancora, mannaggia, no è veramente bello. Vabbè, parlando un po' di artisti, allora, annunciamo il prossimo brano perché... volevo collegarmi a una cosa che purtroppo, devo dirti la verità, mi è dispiaciuta quest'estate. Perché è venuto a mancare il cantante dei Linkin Park. Allora ho detto, va, vedo se, vediamo se troviamo un brano giusto per ricordarlo. Qualcosa per ricordarlo. Devo dirti la verità, è un remix in stile Wolf Trips, però il brano merita. Merita. Va bene. Vai, vai. L'annuncio io. Te lo lascio annunciare. Beh, è una canzone famosissima, anche i sassi la conoscono questa. Sì, infatti c'è un sasso qua che dice "Ah, bella, bella, bella". Cioè, il lupo se uno la canta, cioè te lo dico io. Allora, Linkin Park in the End, Sinner's Ace Remix. Vabbè, sì, il remix, sì, sì, no, adesso è remix, diciamo è un remix trap, remix sempre in genere di Ma Wolf Trips, però. Da dove viene questo DJ? Vediamo se hai studiato. Svezia, allora, la lancio sulla Svezia io. Andiamo a ascoltarla. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away, so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, I didn't even know I tried. It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Back then, but it all comes back to me in the end. We kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried it so. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Questo era il remix dei Linkin Park, Sinner Aced Remix. Allora, torniamo a parlare un po' con la Cree e Emanuele del blog di Biomaterra. Dicevi che volevi fare qualche domanda, sì, vai. Volevo fare delle domande. Lanciati. A proposito del lupo cieco slovacco. Io mi sono avvicinata a questa signora che possedeva questo lupo e, chiedendo se potevo accarezzarlo. E questa signora mi ha detto no, perché il lupo, cioè il cane, non voleva essere avvicinato. Cosa che secondo me non era vera, perché attorno a questo cane c'erano comunque delle persone. E questo cane era tranquillissimo. Io volevo sapere qualcosa in più, nel senso, adesso questo lupo sta tornando di moda e volevo sapere comunque l'indole e se era vero un po' la storia di questo lupo cecoslovacco. Allora, sicuramente tutti gli animali sono diversi tra di loro, quindi capita anche magari con il nostro gatto, il nostro cane, tipo uno spaniel, un cocker, così. Se non gli va di essere avvicinato, non gli va. Però c'è stato questo episodio che praticamente un ragazzo che c'era là l'ha salutato, gli ha detto ciao e gli ha leccato la faccia. Allora. No, poi il cane lupo cecoslovacco, appunto, è ibridato con dei lupi, quindi si va a cercare sia la somiglianza a quella esterna che come comportamento che sia simile al lupo. È comunque un animale sociale, quindi tendenzialmente no, non è né aggressivo né altro. Tanto dipende anche da come viene accudito, come viene cresciuto. Infatti, perché comunque l'impronta del padrone ci deve essere. Cioè, se io gestisco un cane in un modo, allora avrò un discorso. Cioè, avrò un cane, se lo gestisco con affetto, allora sì, il sì, cane... Sì. Poi dipende anche tanto da come riesci a farlo crescere tu, se lo fai crescere in maniera positiva, anche che possa curiosare, insomma, è un po' come un bambino. Se tu rinchiudi un bambino in una stanza, è facile che abbia magari qualche problema, poi non so, sociopatico, che ne so. La stessa cosa con il cane, devi permettergli una crescita giusta, corretta, e in questo modo saprà anche relazionarsi più facilmente con altri individui, sia della sua specie, rispettando comunque i loro tempi e il loro modo di essere comunque. Esatto, sì. Comunque è orribile sentire che una specie di cane diventi di moda. Avevo sentito una notizia poco fa, ma forse qualche giorno fa, sulla Repubblica, che c'era un cane di una pubblicità di una banca svedese. Vedete, questo cane qua tipo volava, no? Aveva tutta questa forma di pelo che volava. È un cane che si sono inventati, non esisteva realmente. Questa banca ha ricevuto un'infinità di telefonate perché voleva sapere che razza di cane era, perché volevano comprarlo. Cioè, ti giuro, guarda che la stupidità delle persone è davvero incredibile. Sì, perché comunque dopo, alla fine della fiera, diventa una moda. Sì, diventa una moda. diventa io voglio quel cane perché, perché il cane è bello, il cane ci piace perché è un cane molto noto. E invece noi siamo per i cani underground, perché noi siamo un programma che trasmette musica underground, quindi i cani andate a prenderli direttamente al canile, non quelli di moda, giusto? Giusto, giusto. Okay. Giusto. Andiamo avanti con la musica. Adesso prendiamo un pezzo drum and bass. Dicevo prima, caro Fabio, che in realtà è qua, ma solo a livello di presenza, che quest'anno andremo in crescendo fino ad arrivare al climax. E adesso ascoltiamo un brano drum and bass che dovrebbe arrivare al climax della puntata e poi andremo un po' in calando. Andiamo ad ascoltare Dirty Phonics con Got Your Love. You got your love, got your love, you got your love, that's me, yeah. And keep the fires burning, baby. Dimmi, dimmi, cosa dicevi, scusa? No, stavo parlando prima con te. No, stavo parlando prima con te della moda dei cani, è vero. Stavo pensando un po' di tempo fa, perché io qualche anno in più magari di due ragazzi qua. Cioè, ero uscito il davvero? Sì, io ho già che passato. Che vecchio che ho sei, già mamma passato mia. I 25. Mamma mia. Ma ti danno la pensione? No, ancora non la ritiro, sono un esodato. Stavo dicendo, tempo fa c'era, non so se era perché era uscito Finci Wow, o forse perché c'era Paris Hilton che no, aveva, più per la canzone anche, non so o se per la ricordo. Canzone, bravo, era successo qualcosa e tutti avevano questo cane Chihuahua che era piccolissimo, sì. E tutti volevano Chihuahua, cane. Bravissima. Poi tempo fa c'era ancora prima la moda ma invece sì, del Labrador, perché nella pubblicità sì. Della non voglio fare la pubblicità della Tenderly, di una carta igienica, di una carta igienica senza fare pubblicità, c'era questo bellissimo cane che è bellissimo, il cucciolo tra l'altro, nemmeno il cucciolo, perché sì. Poi quando diventa grande è una bestia così, è più alto di no, me, no, però è bello anche da grande, non è che dici, brutto non ci vuole tanto essere più alto di te, è vero, però è alto il cane comunque. Beh, qua tra tutti non so. Eh beh, siamo... pensa quando c'è stato Jurassic Park. Chi non voleva avere un Tyrannosaurus in casa? Io avevo il Brontosauro, lo sai. Sì, lo gli davi da mangiare? Rex. Era erbivoro, almeno non mi faceva male. tutti. Vabbè, vabbè. Ti era piaciuto il pezzo di prima? Che ti vedevo. Gasava bello... di brutto. Te l'ho detto, quest'anno metteremo faceva anche molto, qualche. Faceva molto Skrillex. Skrillex nei suoni. No, è più. Sì, sì, dai, più o meno ci sta. È più. Però è drum and bass. Skrillex è più. Più dubstep. Dubstep. Dubstep. Qualche giorno mi spieghi la differenza. Io sono ancora punk rock, vedi un po' te. Vabbè, diciamo che non c'entra un cavolo. Ma no, ma vabbè, ma siamo tutti un po' punk rock, dai. Non è quello il problema. Vabbè, dai, continuiamo con un po' di musica. O avete qualche informazione da dirmi? Che tu volevi parlare di qualcosa, poi dopo sei divagata. Ha perso la retta via. Ha perso la retta via, no? Di boh, che? Ma magari mi ricordo male io. Mi suggerisci. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva scura. Comunque, la dritta via era smarrita. Vabbè, dai, buon Fabio, annunciaci il prossimo brano. Azzo. Vai. E poi dopo ci facciamo un po' di pausa pubblicitaria. E qui poi ci scatta la sigaretta, che sto già in debito di fumo. Non mi sa di no. No, naggia la miseria. Allora, adesso comunque. A parte questo gruppo di dov'è? O questo DJ? Io ti interrogo, lo sai che. Allora, questo DJ è francese. È francese. Ragazzi, è barato, ho usato Wikipedia. No, va bene. Allora, dalla Francia adesso ascoltiamo Jean Bellion. Vedi che è francese, cioè. Infatti ho usato l'accento apposta. Mentre però il titolo è in inglese, All Time Low. Sì, perché ormai non si usa in inglese. Però in francese direi All Time Low. Ma il remix chi è? Boxillion. Vabbè, dai, vabbè, dai. O meglio, Boxillion. Boxillion, sì, perché è francese. Boxillion. È un po' anche cinese. Poi vedi Lyon. Lyon richiama la Francia, no? La Francia, poi gli animali. Gli animali selvatici, il lupo, il leone, sì. Simba. Sì, gli elefanti, non manca più nessuno. Diciamo che il cervello lo lasciamo a casa. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. No, è ancora lì in vacanza. The knight in shining armor in your movie. Well, put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I'm out and all. questo era il brano di John Bellion, All Time Love. John Bellion. Poi si offende, sì, i francesi sono... Vabbè, dai, parliamo del prossimo brano. Da dove viene? Allora, noi adesso ci parcheggeremo dove? In Olanda. Ad Amsterdam. Tra l'altro la tizia che canta è una rapper abbastanza anche famosa. Questo brano qua però non è molto conosciuto. Si chiamano Yellow Club. Quindi non Club. È molto underground. Sì, questo brano qua sì, dai. Un po' un gruppo particolare. Ma sono fuori da tanti anni? Sono fuori da... Grazie, io ti interrogo, eh. Dal 2010 sono 7 anni. Guarda, ha aperto la pagina di Wikipedia, guardala. Ma io puntavo apposta così vedevo l'immagine se la ragazza era carina o meno. Cioè, non avete ancora capito? Oltre ad essere lupo, qua c'è anche il porco, cioè, noi siamo animali selvatici. O meglio, correggetemi, il cinghiale, che è della stessa famiglia del porco, no? Vedi? Che anch'io sì. Qualcosa a scuola ho imparato. Aspetta. Allora, intanto diciamo che loro ascolta. Sono... Ascolta. Beh, lei è una tizia che canta, però devo dirti la verità. Tutti maschi. Ma dov'è lei? Infatti non c'è. Ho visto un coniglietto di Playboy. Aspetta. Non vorrei che sia un banner. Aspetta qua. Comunque, mentre tu cerchi, noi parliamo un po' di Amsterdam. Tu sei mai stata ad Amsterdam? No, e non mi ci porta. Peccato, è una gran città, eh. Io vorrei andarci il più presto possibile. Gran città, io sono stato ad Amsterdam penso 6 anni fa. Un amico che vive là, anche mi ha ospitato, sì. Che suonava con me ai tempi. È una città particolare. D'inverno si ghiacciano i canali e la gente va in giro pattinando sui canali, Fighissimo. Sì, poi a parte la storia di Amsterdam, città libera, a parte quello che se uno vuole può fare. Però a livello naturale è anche molto bella, dai. Sì, no, però è che comunque è una bella città, c'è tutta la zona dei musei. Io per quanto sono pirla sono un grande amante degli musei. Ogni volta che ci vado in una città li vado sempre a vedere. E c'è proprio una zona dedicata a tutti i musei. C'è anche il Museo dei Diamanti che è bellissimo, vi davo 2 lire. E invece è fantastico. E c'è il museo dell'Heineken dove entrate e bevete. Però. E bevete bene. Infatti sono uscito storto, mi sono comprato un orologio senza saperlo. Dell'Heineken, sì, c'era ancora a casa. Caspita. Una ciofeca di orologio. Però ti devo dire che in quel momento mi sembrava quasi un Rolex quando l'ho visto. Sarà state quelle 3-4 pinte dentro che ti fanno bere come una iena. Ma da parete o da polso? No, da polso. Questa era da parete, era ancora meglio. Questa era da parete, l'aveva messo al polso. Andavo in giro come Gesù Cristo. Infatti, mi immagino questa scena con l'orologio in giro. Magari anche col pendolo, quindi me l'ha pure ammazzato in testa. Col cucù. No, comunque Amsterdam, tornando alla città, è una bella città, anche perché la gente è... cordiale, aperta, nel senso, io ho conosciuto gente che non ho mai visto, parlando così, chiedendo informazioni. Una volta anche pranzato con una ragazza, non so neanche io chi sia. Ah, bene, che cercavamo tutti e due la stessa strada, era tedesca lei però. E abbiamo fatto, abbiamo passato un bel pomeriggio insieme. No, mi ha lasciato un bel ricordo. Però vabbè, quindi non, finiamo il come nostro come qua, no? Come sì, qua, uguale qua. Uguale. Chiedi una cosa e ti accoltella, non c'hai capito. Finiamo il nostro giro culturale ad Amsterdam. Andiamo ad ascoltare Yellow Club con City on Lockdown. Comunque la tizia che canta è sta qua, vabbè. Però, ragazzi, lì madre natura ha concesso bene, No, lascia stare. Ma l'hai vista in faccia? For me, let that motherfucker burn now. Tell these bitches, watch it, it's my motherfucking turn now. We blazing. Why you hating, bitch? We blazing. So amazing. Everything is heat, bitch. Hot chick, hot whip. Burn it like a furnace, bitch. Cause all I know is hot shit. We blazing. So why you waiting, bitch? We blazing. So amazing. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. On the lockdown, yeah. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire. Oh, yeah. Bitch, I'm on fire. We 'bout to burn the fucking club down. fucking geek, geek. I'm so fucking throw. I'm seeing in threes. I can't feel my face. Can't stand on my feet. Damn right I'm tripping. Ain't no better way to be. Let's do it again. This time let's do more. Let's blaze out till we pass out and wake up on the floor. I woke up with your hoe. My dick still in her mouth. Man, game so good that I could not take her out. Bitch, I'm on fire. Oh yeah. Siamo finiti il nostro giro ad Amsterdam. È già finito. Sì, e vabbè dai. Un po' come le nostre ferie. Ascolta, è Wolf Trips, ti fa fare dei giri, dei viaggi veloci in giro. Tocca e fuga. Con le orecchie. E infatti il prossimo brano ti annuncio che è di Los Angeles. Così se ti viene in mente qualcosa che vorresti dire. No, in questo momento Los Angeles non ne parlai. C'è stato... Che c'è stato? C'è stato mica l'attentato a Los Angeles, no? Era Las Vegas. Las Vegas. Ho detto una cazzata. Porraci, non gliela tiriamo, dai, porraci. No, io ero là, tutti mi scrivono, ma non è che sei... Non mi ricordo se era Los Angeles o Las Vegas. No, Los Angeles, sono Los Angeles. Ah, questo, okay. Tra l'altro, il prossimo gruppo che ascoltiamo è un gruppo che avevo già passato l'anno scorso. Li sto seguendo da un po', sono del 2015 e mi sta facendo dei brani molto, molto interessanti. Prima puntata è volata praticamente, è già finita. Sono già passate le 9. Sono già passate le 9. Sì, urca. Sì. Infatti, siamo già agli sgoccioli, come dico. No, ormai siamo già fuori dagli sgoccioli. Abbiamo traboccato il vaso. Abbiamo traboccato. Non so, si dice traboccato? No. Sì, Domenico direbbe pisciare fuori dal vaso. Ecco, io anch'io volevo dire quella roba lì. Però ho detto, siamo un po' a un livello. Alziamo l'asticella del vocabolario. Siamo Radio Lupo Solitario, ragazzi. Abbiamo ecceduto il nostro tempo massimo. Abbiamo urinato fuori dal bar. Signore e signori, è tardi. È così semplice, in italiano puoi dire tante cose in mille modi. Dai, allora mettiamo il prossimo brano, che è Xylo con Alive. Intanto volevo introdurre che quest'anno farò un po' di stacchetti diversi con varie voci. Infatti dopo ti romperò le scatole a te, a varie persone. Il primo stacchetto gli ho rotto le scatole alla qui presente Sara. E quindi questo qua l'ho staccato con la sua voce. Allora siamo curiosi di ascoltarli. Poi ci sentiamo dopo per i saluti. Ciao. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground. Solo su Radio Lupo Solitario. I come alive when we're together. somewhere we've not been before. We could get high on the beach or fly to London or Tokyo. I come alive when we're together. E questi erano Xilo o Xil Zero? Zero. Vabbè, non lo so, dove, tanto li, ce li ho come amici su Facebook, quindi io così glielo chiedo. Io lo chiedo come cavolo si quesito. Chiamano. Se volete risponderci, scrivete. Sì, sì, vabbè, vabbè. Ma il numero di Radio Lupo vocale però, scrive? Ah, è vero, messaggio è vero, c'è anche che io servo a qualcosa. È vero, c'è anche un numero di Radio Lupo, però ormai a questo punto lo diciamo alla prossima puntata. Cioè. Va bene, lo teniamo nascosto, surprise. Sì, sì, la prossima puntata, è inutile che ce la teniamo per adesso. Allora, volevo lanciare la sigla, così poi facciamo i saluti, i convenevoli, per usare un termine, colto. I viaggi del lupo. Mio caro buon Fabio, siamo arrivati al termine della prima puntata. E siamo già arrivati ai saluti. Sì, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Dai. Dispiace un po' sempre quando andiamo via, no? Sì, sì, è che dura poco, è quello il problema. Però sì, non è che. Magari dall'altra parte dicono, mica, ma hanno ancora finito questi qua di parlare. Sicuro, eh? sicuro. Anche perché poi io pronuncio già che caricherò il podcast, quindi più lungo lo faccio, più ci metto tempo a caricarlo. Oggi facendolo un po' più corto, che non avevamo sforato. Beh, 8 non minuti, diamogli dai. Tanto da lavorare, dai. No, ci vuole tanto tempo, poi una rottura di scatole. Sì. Vabbè, vabbè, salutiamo un po' tutti. Allora, partiamo prima dal gentil sesso, cioè facciamo le persone. Sì, e dalle persone un po' più serie, dai. Ecco. Allora, salutiamo Sara e Emanuele del blog Biomaterra, che ti ricordo che ogni tanto spunteranno qua come funghi e ci daranno ci insegneranno qualcosa a noi beceri, perché sì, noi sì, sì, ci informeranno un po' anche sulle loro attività, su questi viaggi fanno del lupo. Ma adesso sappiamo che è a Samarate. No, ha detto che è a Magenta. A Magenta, Fabio. Sono stato attento, sono stato un no, mi fai venire i coccoloni che domani mattina devo andare in bici, no? mi trovo il lupo, ma ma un cinghiale sì. Ecco. Ecco, questo potrebbe essere il discorso della prossima pillola da raccontare. Vabbè, comunque salutiamo Sara ed Emanuele. Ciao. Poi salutiamo la Cri Sara. Che Sara ha salutato. Ciao, salutato. Sara è un po' morta. Sara dorme oggi. Stasera. È un po' morta non oggi. È vero, oggi l'abbiamo persa ormai. Poi salutiamo la Cri che si stava incastrando sulla sedia. No, c'è stato un piccolo problema tecnico. Mi fa ancora male la gamba. Vabbè, insomma, quello che è. Ed è stato tutto in diretta web, dobbiamo ricordarlo, no? Se chi volesse vedere la scena. Esatto. Se andate sul sito Radio Lupo. Fabio da buon supereroe ha salvato la situazione. Giusto. Super Fabio diventerà. Quindi se andate sul sito www.radiolupo.it trovate la webcam dal quale ci potete vedere. Ma perché ci vedono anche? Alla regia no, perché abbiamo un piccolo problema tecnico. Sono perché qui. Vedi, quella è defunta. Però gli speaker li vedono belli e cioè, forti. Quindi vedono tutte le minchiate che faccio quando mi metto le dita nel naso. Bravissimo, bravissimo. Quando mi storo le orecchie. Certo. Ti ho visto prima. Non farlo, e ti dico di non farlo. Così, così. Non ero io, era la controfigura. Anzi, era Emanuele. Beccato. Vabbè, quindi allora salutiamo la Cri. Ciao. E salutiamo il buon Fabio. E il buon bingo. No, Domingo, dai. Domingo, scusate. Domingo. Perché... Vabbè, ci sentiamo settimana prossima con la banda di pazzi. Ciao, buona settimana. Ciao.